pacifica, allegra, creativa. Il percorso, la manifestazione era stata convocata a partire dalle ore 17 da Plaza Catalunya. Alla manifestazione hanno partecipato le assemblee di quartiere, così come anche città e comuni di tutta la provincia di Barcellona. Hanno partecipato collettivi di lavoratori e lavoratrici, quali per esempio nel settore dell'educazione, della sanità, le femministe, gli studenti, massiva. Le parole d'ordine erano Felip Puig, il ministro dell'interno della Generalità di Catalunya, che è il responsabile politico dello sgombero della campata di Plaza Catalunya del 27 maggio, dei metodi repressivi che si sono visti e documentati ampiamente anche dai mezzi di comunicazione ufficiali, diciamo, sia in quella data e anche ultimamente il 14 e il 15 durante la manifestazione di fronte al Parlamento in occasione della presentazione della finanziaria, che implica una serie di tagli alle spese sociali impressionanti. La convocatoria è stata raccolta appunto da varie componenti della società in maniera massiva, positiva, determinata e unita, una risposta importante anche e soprattutto dopo i fatti del 14 e il 15 di fronte al Parlamento, a cui hanno seguito, diciamo, ha seguito una campagna di criminalizzazione mediatica di eventuali minoritari, se non isolati e dubbiosi, atti che sono stati definiti violenti. La manifestazione in questo momento non è ancora terminata, partiva da Plaza Catalunya alle 17, arrivava a Pla Palau, una piazza in prossimità del Parlamento, perché il porto è arrivare fino al Parlamento non è stato concesso dalle cosiddette forze dell'ordine, ponendo come scusa i fatti del 14 e il 15. Ancora continuano ad arrivare sezioni della manifestazione, che appunto è stata decisamente massiva, come d'altronde anche quella di Madrid, che si è invece realizzata durante la mattinata. Senti, facci un attimo un riassunto di quello anche che è successo il 14 e il 15 in questo avvicinarsi e voler andare proprio sotto il Parlamento a Barcellona. Sì, certo, il 14 e il 15 era una manifestazione di protesta contro appunto la presentazione della finanziaria di Catalunya, che prevede dei grossi tagli alle spese sociali, soprattutto i settori più colpiti, diciamo, sono educazione e sanità, ma non solo, anche servizi sociali in generale. Si articolava durante le due giornate, il 14 in serata, con un'assemblea, un dibattito appunto sulla finanziaria, la crisi e l'affrontare, pretendere di risolvere la crisi con i tagli alle spese sociali, un accampamento durante la notte alla quale hanno partecipato in maniera pacifica centinaia di persone, e poi la mattina dopo del 15 continuava con una interruzione simbolica della normale funzionalità del Parlamento, volendo appunto rimarcare e far risaltare la illegittimità di questa procedura, non solo perché i tagli sociali appunto vanno a colpire la popolazione in tutti i suoi settori, visto anche la magnitudine di questi tagli, ma anche e soprattutto perché questi tipi di tagli non erano stati presentati in nessuno dei programmi elettorali, quindi diciamo anche dentro la logica della democrazia rappresentativa. Durante la mattinata del 15 c'è stato un dispiegamento di forze di polizia molto grande intorno alle entrate del Parlamento. Alcuni parlamentari hanno deciso di accedere al Parlamento in elicottero, altri nei furgoni dei celerini e altri a piedi. Per quelli che hanno acceduto a piedi, diciamo che gli sono stati rivolti in alcuni casi degli insulti e ci sono stati dei casi, anche se non decisamente chiariti, di atti non completamente pacifici. Dico non decisamente chiariti perché ci sono ad esempio delle testimonianze video con dei poliziotti infiltrati che sono stati riconosciuti, e quindi appunto è lungo il processo per chiarire e investigare che cosa sia in realtà successo. Il risultato di questo è stato la detenzione di 6 persone che sono state rilasciate dopo le 48 ore con delle accuse di resistenza e disobbedienza e una campagna mediatica di criminalizzazione del movimento del 15M del 15 di maggio che appunto ha fra le sue caratteristiche la non violenza. Quindi in questo senso la risposta massiva, pacifica, creativa di oggi è una risposta ulteriore, a una dimostrazione ulteriore che questa è stata una campagna mediatica che molto probabilmente già era preparata. Che comunque non ha attecchito, vista la quantità di gente che tra stamattina e oggi pomeriggio e stasera insomma è scesa in piazza in Spagna. Senti, visto che... Assolutamente no, la risposta è stata massiva e anche plurale, diversificata, ci sono giovani, famiglie, bambini, persone anziane, trasversale, completamente rappresentativa di tutti i settori della società. Senti, dove finirà, visto che non è stato concesso di arrivare sotto il Parlamento di Catalogna? Sì, si è arrivati e ci si è fermati in Plau Palau, che è appunto una piazza che starà circa 500 metri dal Parlamento. In questo momento non era interesse arrivare al Parlamento, era semplicemente una manifestazione nell'anniversario di un mese, quasi poco più di un mese dell'inizio di questo movimento che appunto è iniziato dopo la manifestazione del 15 di maggio indetta e organizzata da Democrazia Real IA e dalla quale poi è scaturita in maniera anche abbastanza indipendente, anche se connessa, le varie accampadas in distinte città dello Stato spagnolo. Quali saranno i prossimi appuntamenti dopo oggi? Insomma, diciamo che comunque per quanto riguarda Italia e la crisi, a parte che in Italia di quello che succede in Grecia piuttosto che quello che succede in Spagna ne arrivano notizie quasi zero, e questo insomma anche per non far vedere quanta gente sta protestando un po' in tutta Europa, perché la crisi la stanno pagando loro, le piazze. E quali saranno i prossimi appuntamenti, se ce lo vuoi dire? Guarda, in questo momento non c'è nessuna data fissata, nel senso che questo movimento è sicuramente coordinato e articolato, però nello stesso tempo è molto presente nel territorio, quindi anche nelle distinte città, nelle distinte realtà in cui si sviluppa, prende e adotta anche delle date e delle scadenze legate al territorio e alla situazione specifica. Si segue decisamente con il lavoro nei quartieri, che già si è iniziato da alcune settimane e che sta andando molto bene, sta aggregando molte persone a livello di quartiere e che si sta coordinando anche con, non solo tra le diverse assemblee di quartiere e anche dei comuni a livello di tutta Catalogna, per esempio io parlo di Catalogna, però anche con altre realtà sociali, quali possono essere collettivi di lavoratori e lavoratrici di alcuni settori specifici. E per quanto riguarda invece azioni dei lavoratori rispetto agli scioperi eccetera, ci sono insomma ci saranno delle iniziative? Nel senso che in Grecia... dimmi tu. Sì, diciamo che il discorso di preparare uno sciopero generale è sicuramente fra i temi dibattuti all'interno di questo movimento. Al momento non è una parola d'ordine, nel senso che non c'è, non è delineato e definito come obiettivo, anche se sicuramente questa è una delle linee su cui si sta lavorando. Sicuramente una delle linee su cui si lavora e che è fra le varie parole d'ordine della manifestazione di oggi, oltre a quella delle dimissioni del Ministro dell'Interno di Catalogna che è specifica qui, è il rifiuto del patto dell'euro che si discuterà e probabilmente approverà tra il 24 e il 25 di giugno a livello di Eurozona, ed è sicuramente quella di rifiutare e resistere ai tagli sociali che sono diretti a che questa crisi finanziaria provocata dal sistema finanziario con la complicità del sistema politico venga pagato dai settori sociali della popolazione anziché dai suoi responsabili. Perfetto, io se non hai altro da aggiungere terminerei anche qui, tanto potremmo risentirci insomma in settimana per andare a capire quali saranno le ulteriori fasi delle piazze spagnole. sicuramente vi terrò aggiornate da Barcellona. Un abbraccio e un saluto a tutti e tutte da questa bellissima manifestazione.